Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Qui in studio siamo Valentina e Eleonora, ciao a tutti. Oggi abbiamo deciso di parlarvi dei beni confiscati in Emilia. Ele, dici un po', quando si è incominciato a confiscare i beni? Allora, dobbiamo prima di tutto fare una noiosissima introduzione giuridica. La prima legge veramente importante in materia di confisca dei beni sequestrati ai mafiosi è la legge Rognoni-La Torre, che è la legge numero 646 del 1982. Questa legge permette la confisca dei beni di cui non è possibile accertare la lecita provenienza. Prima di avere una nuova legge veramente importante in materia si dovranno aspettare gli anni 90. Durante gli anni 90 nasce anche l'associazione Libera, associazioni numeri e nomi contro le mafie. Nasce proprio per iniziativa di Libera la successiva legge più importante in materia di beni, che è quella che permise poi il riutilizzo di questi beni per scopi sociali. Questa legge nacque da un'iniziativa popolare ed è la legge numero 109 del 1996. Tale legge fu intitolata anch'essa Pio La Torre e introduce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. E oggi come vengono gestiti questi beni? Allora, c'è una normativa molto recente che ha istituito in particolar modo il 4 febbraio del 2010, ha un nome lunghissimo questa agenzia, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Molto lungo, difficile da ricordarsi, la cosa importante è che questa è l'agenzia che ha il compito di destinare i beni che vengono sequestrati. E per sapere dove sono, quindi io posso andare sul sito e vedere dove sono i vari beni in Italia? Non è facilissimo capirlo, però comunque abbiamo una buona mappatura dei vari beni presenti nelle regioni italiane. In particolar modo ti dirò il numero totale dei beni ed è di ben 12.472. Però quanti? Vabbè, saranno tutti al sud, immagino. Sì, vabbè, quello che ci piace raccontarci. Al nord piace sempre dire sì, sì, tanto la mafia al sud. Invece anche in Emilia abbiamo un bel numero. Secondo te quanti possono essere? Ma 60, 50, sali, ma sali. Sono troppi. No, devo salire. Sono 110. Ma va così tanti? Eh sì, non saranno i 5.000 della Sicilia, ma ne abbiamo una buona parte anche noi. E sono 110 tra immobili e aziende e in particolar modo ne troviamo 38 soltanto qua a Bologna. Ma ora lasciamo la parola agli esperti. Intanto vi lasciamo con una canzone. Che canzone scegliamo, Ele? Mettiamo If You Want Me to Stay degli Sly and the Family Stone. Thank you. you shake me again. I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good. I wish I could get the message over to you. Abbiamo appena sentito questa magnifica canzone e abbiamo un ospite questo pomeriggio con noi, Antonio Monachetti. Ciao, saluta, a tutti. Saluta, referente di Libera Bologna, che ci aiuterà a capire un po' meglio la situazione dei beni confiscati a Bologna. Volentieri. Dicci, allora, ci sono beni confiscati dunque a Bologna? Sì, Bologna, come le altre città dell'Emilia Romagna, vede la presenza di alcuni beni confiscati. Quelli che risultano, a cui possiamo accedere dall'elenco dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e Sequestrati, sono soprattutto quelli immobili, divisi in appartamenti o aziende. A Bologna abbiamo entrambe queste tipologie, esatto. Quindi sia appartamenti privati proprio? Sì, allora, i beni presenti sulla città di Bologna sono stati confiscati a Costa Giovanni. Mentre i beni di Pianoro a Gherardo Cuomo, e poi ci sono altri beni confiscati nel comune di Imola e nel comune di Gaggio Montano. Gli unici che risultano destinati, assegnati, riutilizzati sono quelli, ci risultano essere quelli di Gaggio Montano. Ecco, questo infatti ci interessa, cioè come mai, perché? Perché solo questi? Per motivi diversi in realtà. Quelli di Bologna, il nucleo di supporto all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati sta lavorando e da quello che ci risulta dovrebbe arrivare una prossima assegnazione, quello di Via Galliera, perché a Bologna abbiamo un appartamento in Via Galliera, un appartamento in Galleria Falcone. Centralissimo quindi. Sì, sì, un appartamento in Galleria Falcone e Borsellino, ancora, ottimo, ancora più centrale. Una rimessa, un garage lì in prossimità, in Santa Margherita. Dopodiché i beni presenti in città sono soprattutto aziende, confiscate sempre al signor Costa. Costa. E qui si sta andando verso un'assegnazione, in realtà quello immediatamente disponibile dopo gli accertamenti è in fase di assegnazione, probabilmente, se non sbaglio, rimarrà in gestione al Ministero di Giustizia. Mentre quello di Galleria Falcone Borsellino ha una particolarità in quanto è attualmente ancora occupato, quindi deve essere. Ma infatti, cioè, quali sono i problemi? Cosa rende difficile la riassegnazione, allora, di un bene? Esatto, i problemi sono di varia natura in realtà. Ci può essere uno stato del bene che non permette l'immediato impiego di utilizzo, quindi cioè bisognerebbe ristrutturarlo, esatto, ed è costoso, esatto. E Bologna, per esempio, ha una tipologia di questo tipo, che sono sempre confiscati a Costa una villa in prossimità dei viali di circa 1000 metri quadri. Mannaggia. Dopodiché il sopralluogo fatto dal comune di Bologna e dagli enti competenti prevede un impiego di spesa per una ristrutturazione che va su qualche milione di euro. Quindi sia per le cifre. Le altre problematiche potrebbero magari essere lo stato di occupazione di quei beni, o da parte dei proprietari a cui sono stati confiscati, le famiglie dei proprietari a cui sono stati confiscati, oppure perché ci sono perché sono occupati da soggetti che magari avevano una comproprietà che non è stata toccata dalla confisca. Comunque questa può essere un motivo, così come tante volte la difficoltà di destinare, di utilizzare questi beni è dovuta anche alla presenza di ipoteche. Le ipoteche delle banche, infatti stavo pensando. Di debiti particolarmente gravosi sul bene, che di fatto scoraggiano il riutilizzo, riuscire, esatto, a rimettere. Esatto. E questo, cioè, alla fin fine in realtà Libera si occupa

Rieccoci in studio, sono in compagnia della professoressa Stefania Pellegrini, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Buonasera intanto. Buonasera. La professoressa è qui con noi e ci parlerà del master che è stato istituito da pochissimo presso appunto l'Università di Bologna, il master in gestione dei beni confiscati alle mafie, Pio La Torre. E professoressa, da dove nasce l'idea di questo master? Beh, innanzitutto nasce dall'idea di creare delle professionalità che sono in grado di occuparsi dei beni delle aziende confiscate alle mafie a vario titolo, dagli amministratori giudiziari a coloro che hanno necessità, magari come amministratori locali, di chiedere in assegnazione il bene confiscato, a tutte quelle realtà anche cooperative che chiedono in assegnazione, devono superare le mille difficoltà proprio che richiede l'assegnazione del bene confiscato. Quanto conta oggi come oggi avere una competenza e una professionalità specifica in questo ambito? Serve tantissimo, perché ricordiamoci che abbiamo a che fare con una criminalità che è altamente professionalizzata e quindi la passione nella lotta alla mafia è molto importante, ma è ancora più importante adesso la professionalità, quindi il discorso della formazione universitaria ma anche la formazione post universitaria e quindi quella professionale. I beni confiscati sono comunque un patrimonio immenso che è difficilissimo da gestire, perché sono beni e aziende, non bisogna dimenticare che c'è tutta la problematica che riguarda le aziende, che è complessissima, che fa riferimento anche ai lavoratori di queste aziende che si ritrovano senza lavoro pur non avendo avuto fatto nulla, se non aver avuto la sfortuna di essere stati assunti da un'azienda gestita da persone poco raccomandabili, insomma. E quindi sono molto molto molto complessa la gestione di questi beni e queste aziende, ed è molto complesso il fatto di prendere questi beni, queste aziende, e riportarle a riprodurre ricchezza, ed è questa la cosa fondamentale. Non pensare che questi beni, queste aziende debbano semplicemente sopravvivere, ma debbano rinascere, perché il fatto che la mafia restituisce il maltolto è un segnale molto importante, ma sarebbe un fallimento se queste aziende fallissero, come molto spesso capita, o se questi beni dovessero cadere in disgrazia o essere completamente distrutti. E quindi con l'esperienza che abbiamo naturalmente con le associazioni nate, con le operative nate sui campi di Liberaterra, e anche con le aziende come la Calcestruzzi Ricina, è un'esperienza di queste nuove realtà che crea una ricchezza pulita. Professoressa, la ringrazio per essere intervenuta e, come di consueto, volevamo chiederle la canzone che vorrebbe ascoltare durante il nostro programma. Ma sembra strano, ma io amo molto una canzone di Jovanotti che è Temporale, un parlato molto interessante con significati di valori molto, molto belli, molto umani, molto semplici, come l'amore, come tante belle cose. Grazie mille, professoressa. Grazie a voi, grazie, in bocca al lupo. Gli occhi non sanno vedere quello che il cuore vede, la mente non può sapere quello che il cuore sa, l'orecchio non può sentire quello che il cuore sente, le mani non sanno dare quello che il cuore dà. C'è un temporale in arrivo, c'è un temporale in arrivo, senti l'elettricità, c'è un temporale in arrivo sulla mia città. Porta novità, porta novità. Il lupo perde il pelo, io perdo le occasioni, ma non so perdere il vizio delle emozioni. La vita è più interessante delle definizioni, e tutto quello che arriva da qualche parte va. Gerusalemme divisa sotto ad un solo cielo, e la mia mente è divisa dentro ad un corpo solo. Un meridiano per forza incrocia un parallelo, determinando la sorte di molta umanità. E tutto quello che sappiamo non è vero, e tutto quello che sappiamo non è vero. Si perdono le origini nel buco del tempo, ma tutto si conserva nelle profondità. Sia l'elefante che il topo non avranno scampo, la legge della savana li governerà. Non si può scegliere un sogno, non si può scegliere. Quando ti arriva, non c'è niente da fare. Le previsioni del tempo si possono prevedere, ma un temporale che arriva non lo puoi fermare. Si danza per imboccare la fertilità, si danza prima del sesso o di un combattimento, si danza per riscaldarci dal freddo che fa, si danza per imitare il lavoro del vento. Quando non so dove sono, io mi sento a casa. Quando non so con chi sono, mi sento in compagnia. Quando c'è troppa virtù, il cuore mi si intasa. La cura è spesso nascosta dentro la malattia. C'è un temporale in arrivo, c'è un temporale in arrivo, senti l'elettricità. C'è un temporale in arrivo sulla mia città. Porta novità, porta novità. Quando tu hai fame nessuno può mangiare per te. Quando io ho sete nessuno può bere al posto mio. Anche gli automi hanno un cuore di alluminio puro, pronto per farci passare l'amore del futuro. Abramo lascia la casa senza sapere niente, si mette in strada lasciando quel che sapeva già. E il travestista si gioca tutto continuamente, per pochi soldi e per un brivido di libertà. L'autista di scuola bus ha in mano la nazione, più di un ministro, di un papa o di un'autorità. E c'è una terra di mezzo tra il torto e la ragione, la maggior parte del mondo la puoi trovare là. Lavoro in corso, ci dispiace per l'inconveniente, hanno scoperto una casa dell'antichità. Due scheletri abbracciati, qualche osso, poco niente, ma il loro bacio va avanti per l'eternità. C'è un temporale in arrivo, c'è un temporale in arrivo, senti l'elettricità. C'è un temporale in arrivo sulla mia città. Porta novità, porta novità. L'antico impero cinese accolse Marco Polo perché era un giovane mercante d'immaginazione. Non servono grandi ali per spiccare il volo, la vita è molto più vasta di una definizione. E stanno tutti aspettando che succeda qualcosa che tolga il velo di polvere dalla realtà. E stanno tutti aspettando che arrivi la sposa col fiore in mano e una promessa di felicità. Problemi di digestione ispirano romanzi, rivelazioni che nascono nell'acidità. Un po' di bicarbonato dopo certi pranzi si eviterebbe lo scontro delle civiltà. Gli uccelli volano basso e sfiorano l'asfalto, e i cani stanno in silenzio con aria d'attesa. La foto sulla parete mi segue con lo sguardo. Nessun allarme per ora, nessuna sorpresa. C'è un temporale in arrivo, un temporale in arrivo, senti l'elettricità. Un temporale in arrivo sulla mia città. Porta novità, porta novità. E l'invincibile non è quello che vince sempre, ma quello che anche se perde non è vinto mai. L'intelligenza nel corpo, il sapere nel cuore. Se pensi sempre ad un muro troverai. Mi son trovato memorie che non sono mie, ho un solo nome ma almeno 100 identità. È naturale preferire le belle bugie alla durezza di ghiaccio di certe verità. Viviamo comodi dentro le nostre virgolette, ma il mondo è molto più grande di così. Se uno ha imparato a contare soltanto tanto fino a 7, vuol mica dire che l'8 non possa esserci. Senti l'elettricità, senti l'elettricità. Senti l'elettricità, senti l'elettricità. C'è un temporale in arrivo, porta novità, porta novità. Ringraziamo Stefania Pellegrini e Antonio Monachetti, vi le salutiamo per questa pausa natalizia. Dai tecnico, regalaci un bel pezzo natalizio per chiudere. Va bene, vi lascio con Christmas degli Who. Auguri! Auguri! Auguri!